America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. We're following breaking news tonight on CNN. A truck driver plows into Bastille Day crowds in Nice, France, killing at least 77 people. Beh, come potete immaginare, l'America ha vissuto con grande partecipazione, con grande sofferenza, la strage di Nizza. Ci sono state le interruzioni dei programmi, ci sono stati collegamenti indiretti, il fatto che questa strage sia avvenuta poi appunto il 14 di luglio. Ricordiamolo, perché gli Stati Uniti e la Francia sono molto, molto vicini sul piano dei valori, sul piano di quelle che dovevano essere le ispirazioni che portavano al nuovo modo di essere per una repubblica. Poi l'esperimento americano è andato avanti, quello francese si è fermato, ma insomma il rapporto sul piano di certi valori è straordinariamente forte. Questo è un attacco, ha detto il presidente Barack Obama, un attacco ai valori comuni che ci uniscono, e siamo molto vicini al popolo francese. I'm narrowing it down. I mean, I'm at 3, potentially 4. But in my own mind I probably am thinking about 2. Donald Trump, beh, questa è stata una delle notizie dominanti sempre di ieri, perché Donald Trump ha annunciato che oggi alle 17 ora italiana, quindi fra poche ore, alle 11 del mattino ora di New York, darà il nome del vicepresidente che ha scelto per la corsa alla Casa Bianca del 2016. Direi che c'è una convergenza di opinioni sul fatto che la scelta cadrà sul governatore dell'Indiana Mike Pence. Lunedì, tra l'altro, come sapete, si aprono le convention, dunque ci sentiremo a quel punto già da Cleveland. Sarò tutti i giorni della convention a Cleveland, in Ohio, a seguire la convention repubblicana. Ma devo dire che l'America in questi giorni invece è molto assorbita da un altro fenomeno, di cui abbiamo parlato ampiamente su America 24. Quando vi dico seguite america24.com è perché ci sono notizie in continuazione che ovviamente non riesco a far rientrare tutte nel nostro programma radio. E dunque già alcuni giorni fa ne parlavamo. Di che cosa? Beh, di Pokémon. Sapete, Pokémon sono queste creature strane, colorate, con cui i ragazzini giocavano già prima, facevano i videogiochi, un'invenzione giapponese del 96, e ora improvvisamente che cosa è successo? Che si sono inventati delle piattaforme sui telefonini, Pokémon Go, che riproduce il luogo reale in cui il giocatore dà la caccia al Pokémon. Tutto questo è distribuito da un algoritmo appunto di Niantic. Allora, se voi vedete nello schermo, nel vostro videoschermo, che riproduce poi la realtà inquadrata dalla telecamera del telefonino, nel senso che voi vedete quello che sta attorno a voi, la strada, il palazzo, l'ingresso di un portone, la metropolitana. Ecco, attraverso questa finestra si vedono improvvisamente questi Pokémon e si possono catturare con la famosa sfera Poké. Si deve far scivolare questa sfera, lo acchiappa e il Pokémon viene fatto prigioniero. A quel punto bisogna allenarli, ci sono anche delle palestre virtuali e devono combattere fra di loro, devono sfidarsi, ed è possibile comportarsi nella vita reale come un allenatore di Pokémon. Qual è lo sviluppo straordinario? È che qui a New York, ma noi le vediamo per strada, si formano dei gruppi di decine e decine di persone, perché improvvisamente c'è un Pokémon e sembra che sia lì dove tu stai passeggiando e lo devi catturare, e si creano veramente dei gruppi di persone. A questo punto i gruppi di persone, oltre ad essere locali, si sono iscritti in dei gruppi che lavorano insieme su internet. Sono gruppi ormai di 200, 300, 400 mila persone, ed è diventata la frenesia del momento. Ma ci sono stati problemi, per esempio in Missouri la polizia ha arrestato 4 persone che usavano il gioco per attirare la gente in aree isolate e poi per derubarli. La metropolitana ha rilasciato un comunicato: sappiamo benissimo che dovete catturare questi Pokémon, li dovete catturare tutti, però restate al di là della linea gialla, per cortesia non andate sui binari. Ecco, poi un'altra storia dal Wyoming: questa ragazzina che stava cercando di catturare un Pokémon, correva, andava, è andata vicino a un fiume per catturarlo, a un certo punto, ha scoperto, pensate, orrido, un cadavere che era lì sulle rive del fiume. Can we get him? 1, 2, 3. Yes, caught a Tauros. Allora, vi dicevo, su America 24 ne abbiamo parlato un pochino, ma lo faccio oggi perché il debutto italiano è avvenuto oggi. Dunque, forse voi che siete in macchina o che state ascoltando il podcast ancora non li avete visti, però basta scaricare una app sul vostro telefonino e di fatto potete partecipare al gioco. In America c'è già da 10 giorni e ha spopolato. Pensate, il 3% della popolazione americana ha già scaricato la app. Stiamo parlando di 15 milioni di download nel giro di una settimana e nei primi 2 giorni ha battuto il record di Tinder, che era l'app di appuntamenti più diffusa nel mondo, e a questo punto si sta avvicinando ai numeri di Twitter. Come nasce? Beh, nasce con un'idea di Niantic Labs, che è una startup di San Francisco che tra l'altro finanziata da Google, che poi però l'ha lasciata andare, quindi adesso è indipendente, e ha dato nuova vita al fenomeno Pokémon. Questo è un franchise che appunto è nato nel 96 come un videogame per Game Boy di Nintendo e poi come cartone animato, ed è stata la passione di tutti i ragazzini, di tutti i bambini che crescevano in quegli anni. Ecco, il primo impatto naturalmente è su Niantic, perché i fondatori, devo dire, sono molto contenti. Pensate, le azioni sono già salite del 25%, Unity Technology, che è la società che ha sviluppato il software alla base di Pokémon Go, perché così si chiama Pokémon Go, nell'ultimo giro di investimenti ha raccolto 181 milioni di dollari. A questo punto c'è Hollywood che subito si è buttata sulla vicenda, perché Legendary Pictures sta valutando l'acquisto dei diritti per un film su Pokémon Go. Ecco, qual è la cosa che mi... sono due cose, devo dire, che mi colpiscono. La prima è che nel giro di 10 giorni esplode un fenomeno che mette in movimento un altro fenomeno. Hollywood si interessa, diventa una cosa mondiale, centinaia di persone per strada che si mobilitano, i sociologi che dicono questo gioco è fantastico perché almeno i bambini vanno per strada, i ragazzini invece di stare chiusi a casa a fare un videogame nella loro stanza scendono, vanno al parco, vanno all'aria aperta. Per esempio, uno dei punti di interesse, perché ci sono dei punti di interesse dove si trovano più facilmente questi Pokémon, è a Central Park. Cosa c'è di male nel mandare dei ragazzini a Central Park? Ma l'altro aspetto che secondo me è molto interessante è che diventa questo un modo nuovo per sfruttare e usare il telefonino, perché è una tecnologia di realtà virtuale che insomma apre una nuova dimensione nel modo in cui si possono usare i telefonini anche per un gioco. E di fatto ci sono una gran quantità di altri che sono interessati a sviluppare progetti simili, per esempio Microsoft HoloLens, sono degli occhiali che proiettano delle immagini virtuali nel mondo reale. Google Project Tango, che la visualizzazione degli oggetti nello spazio in chiave tridimensionale. Un altro progetto, quello di Magic Leap, che promette di proiettare oggetti virtuali nel mondo reale. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì alla Convention Repubblicana di Cleveland.